esubero, anarchici, cassa integrati, idealisti fatti in Cina o in qualche altro posto che scopriremo poi. Non ti ricordi la voglia di dare, l'istinto d'avere, la matematica certezza di non poterci riuscire. Do the land.